Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Spiace dirlo, ma soltanto a Reggio Calabria poteva accadere che i figli dei detenuti di alcuni importanti processi nati dalle inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia si riunissero sotto la sede del Tribunale per manifestare contro l'azione della Procura. Diversi gli striscioni, ma uno mi ha colpito, eccolo. Stendiamo un velo pietoso sugli arresti fatti solo per i nomi e le indagini fatte a modo loro, tralasciando le evidenze solo per fare notizie e riempire le pagine dei giornali, senza andare a fondo. Tanti giudici che predicano bene e razzolano male. Nessuno, sia ben chiaro, si permette di mettere in dubbio le ragioni di quanti hanno protestato per difendere il diritto ad un processo rapido e una giustizia vera per i propri familiari detenuti. Non siamo né magistrati inquirenti né giudici e non sta dunque a noi dire se quegli uomini in carcere sono o meno colpevoli. Alla manifestazione erano presenti, ad esempio, anche i familiari dei Longo. Mio papà è stato arrestato nell'operazione Crimine, ha detto Francesca Longo, figlia del presunto boss Vincenzo. È da un anno e mezzo che al 41 bis, ancora in attesa di giudizio. A distanza di un anno mi hanno arrestato tutta la famiglia e ci hanno sequestrato tutto. Avranno, ripeto, le loro ragioni a difesa, ma non in attacco. Per questo mi sento di far mie le dichiarazioni del sindaco di Polistena, Michele Tripodi. Il sit-in di protesta compiuto nei giorni scorsi da alcune donne, parenti di detenuti dinanzi al Palazzo di Giustizia, ha affermato: rappresenta una provocazione che scuote le coscienze, sì, ma in senso opposto. Per il sindaco di Polistena l'interesse dell'andrangheta è infatti quello di confondersi con la società normale, curando le pubbliche relazioni e la propaganda nel tentativo di ricevere ed accrescere il consenso che poi equivale a controllo. Buona vita e a domani.